Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo del modo di fare libri e parliamo di questo tema da un aspetto un po' particolare, cioè quello delle case editrici che rifiutano di pubblicare determinate opere. È un'attività naturalmente molto importante, quella del rifiuto, che spesso ha portato a degli errori clamorosi, il più famigerato dei quali è certamente stato nel dopoguerra quello del Gattopardo, che fu respinto sia da Einaudi che da Mondadori. Questa storia appassionante di rifiuti rivelatisi spesso delle autentiche perle è contenuta nel libro Siamo spiacenti, controstorie dell'editoria italiana attraverso i rifiuti di Giancarlo Ferretti, che è un esperto di questo tema, esperto di editoria. Il libro è pubblicato da Bruno Mondadori, 234 pagine, 20 euro. Il libro vuole subito sfatare, rovesciare il luogo comune della contrapposizione tra l'editore, così lo descrive Ferretti, potente, distratto, mercantile, conformista o crudele, da un lato, e dall'altro lato l'autore, indifeso, incompreso, impotente, vittima. In realtà dietro un rifiuto ci possono essere delle coerenti scelte editoriali o degli significativi orientamenti ideologici. E quello che porta al rifiuto può essere un processo che può portare anche a dei casi clamorosi come quello che ricordavo del Gattopardo o il rifiuto di pubblicare Svevo nel 1892 o Proust nel 1912. In questo libro non si parla di questi ultimi casi perché partiamo dal 1925 e si considera soltanto l'Italia. La storia è divisa in quattro periodi, nel periodo del fascismo e fino agli anni 50, il piccolo boom fra il 56 e il 73 e poi sostanzialmente gli anni nei quali ci troviamo oggi, dal 73 in poi. Da allora naturalmente i rifiuti non condizionano il successo del libro e infatti questo libro di Ferretti si chiude raccontando un'esperienza personale con una morale paradossale. È proprio vero, niente di meglio di un rifiuto. E allora chiediamo all'autore di spiegarci questo paradosso. Buongiorno a Giancarlo Ferretti. Buongiorno. Giancarlo Ferretti, lei conclude il suo libro dicendo: è proprio vero, niente di meglio di un rifiuto. Ecco, ci può spiegare questa formula così paradossale apparentemente? Tra l'altro quello era il titolo di un articolo che avevo scritto tanti anni fa sull'Indice che anticipava questa tesi, ma è una constatazione, insomma, in sostanza un libro meritevole trova quasi sempre, per non dire sempre, un editore dopo il primo, il secondo e anche il terzo rifiuto. Certo, purtroppo qualche volta un autore muore prima, come il caso di Tomasi, di Morselli, però ecco, possiamo dire con molta così rispetto naturalmente che poi il libro esce vittorioso lo stesso, anche post mortem. Lei ha citato il caso del Gattopardo, che tra l'altro lei ha studiato a fondo. È curiosa la posizione di Vittorini, che lo caldeggiò per Mondadori ma lo escluse per Einaudi. Come andò questa vicenda? Ma Vittorini era consulente di entrambi gli editori, una situazione tutto sommato abbastanza accettata dai due editori, anche e soprattutto perché avevano politiche diverse, no? Politiche editoriali diverse, che tra l'altro si riflettono anche in questo episodio. Insomma, il Gattopardo poteva essere un buon romanzo anche di successo per la Mondadori, non poteva assolutamente entrare in una collana sperimentale come quella che Vittorini dirigeva per Einaudi, cioè i Gettoni. Quindi lì Vittorini, paradosso apparente, fu un bravo editore in entrambi i casi. Ecco, l'altro caso che lei ha appena citato è quello di Morselli, che fu un caso che finì drammaticamente col suicidio dell'autore. Sì. Ecco, lei come spiega questa ostinazione così forte contro Morselli e poi invece il grande successo che ha avuto post mortem quando cominciò a essere pubblicato? Ma il caso di Morselli è clamoroso e probabilmente ci sarà da studiare ancora. Quello che risulta abbastanza chiaramente, a parte una coincidenza fatale che a metà di questa storia dei rifiuti insomma porta Morselli vicinissimo alla pubblicazione e poi una serie di coincidenze, ripeto, fatali, fanno fallire la cosa un'altra volta. Però a parte questo, quello di sostanza che esce abbastanza chiaramente è un autore che apparve un po' anticipato sui tempi, comunque non in sintonia con i tempi. E in particolare un leitmotiv abbastanza ricorrente sia nelle lettere di Calvino sia di altri, anche di Sereni, che appunto appunto furono tre gli illustri rifiutatori, no, di Morselli, era una eccessiva mescolanza di stili, mescolanza di generi, mescolanza quasi di discipline, insomma, all'interno di romanzi che non erano romanzi. E poi c'è il caso inverso di uno scrittore che dopo molti rifiuti invece ha ottenuto un enorme successo in vita, come Camilleri. Camilleri che appunto ha avuto... Beh, lì però è un altro caso a sé. Il libro rifiutato di Camilleri, il primo, non era riuscito, insomma, la critica ha poi stabilito in modo abbastanza convincente che era una prova immatura, soprattutto il linguaggio non funzionava, tanto è vero che insomma lui dopo quel libro, che poi comunque fu pubblicato lo stesso, anche in questo caso quello che dicevo, cioè quello che io chiamo la provvidenza laica protettrice dei rifiutati, funzionò. Infatti poi il successo venne con altri romanzi, no? E soprattutto con la serie Montalbano, che fra l'altro fu un successo, è stato e è ancora un successo costante. Lei ha scoperto anche il recordman dei rifiuti, Giuseppe Cerone. Sì, che è un personaggio curioso, fra l'altro una persona molto, devo dire, rispettabile, perché nonostante le cose che sono state scritte su di lui, non solo da me, cioè cose che ridimensionano fortemente, no, la sua figura, è sempre stato molto disponibile e cortese, anche lo voglio dire, approfitto di questa occasione, verso, diciamo, i coloro che si sono occupati di lui. E il suo caso è singolare perché Cerone mise in atto una vera e propria strategia del rifiuto, cioè per raccoglierne talmente tanti, rivolgendosi spesso alle stesse persone, insistendo, telefonando, appunto per arrivare a un record. Poi arrivò Calcagno, quel giornalista della stampa di Torino, che gli fece un altro e lo rivelò. E oggi che succede nelle case editrici? Sono cambiate le politiche di rifiuto? Vale davvero soltanto la speranza di fare il best seller? Ma oggi, ecco, naturalmente è una domanda, come lei sa, ci vorrebbe troppo tempo per rispondere esaurientemente. Colgo solo un aspetto che mi sembra quello più vistoso, cioè il fatto che oggi non si può più rimanere inediti, cioè c'è un'offerta talmente sterminata, no, di sedi, di pubblicazioni, di occasioni per concorsi, premi, concorsini, festival, insomma, sia su carta sia su rete, che praticamente, ripeto, oggi è diventato difficile, se non impossibile, restare inediti. Ma cosa accade? Questo soprattutto nell'editoria, diciamo, istituzionale, ecco. Accade che l'autore, soprattutto cercato come autore giovane, come autore nuovo, come esordiente, se fallisce, diciamo, col primo romanzo, cioè il successo romanzo, il primo romanzo non ha successo, viene subito abbandonato. Insomma, qualche speranza possiamo coltivarla tutti. Sì. Grazie a Giancarlo Ferretti, autore di Siamo Spiacenti. Buona domenica. A lei. Ai giovani scrittori che non si lasciano scoraggiare, invece, segnalo il libro di una grandissima scrittrice, Virginia Woolf, I consigli a un aspirante scrittore, pubblicato da Rizzoli, 268 pagine, 7 euro, tradotto da Bianca Tarozzi e Giordano Vintaloro. La Woolf, autrice di romanzi famosissimi, scrisse moltissimo di libri e letteratura, e questa è un'antologia di brani, alcuni di questi sono anche inediti in Italia, che possono aiutarci a capire il nostro rapporto con i libri, sia come lettori che come scrittori. Lo confermo per esempio questo brano che vi propongo, che può essere molto utile a noi lettori per capire come accostarci a un libro. Come possiamo mettere ordine in questo caos molteplice e ricavare così il piacere più grande e profondo dalla lettura? È abbastanza semplice dire che siccome i libri sono divisi in generi, narrativa, biografia, poesia, dovremmo prenderle separatamente e domandare a ognuno solo quello che è in grado di darci. Pochi però fanno questo. Spesso e volentieri ci accostiamo ai testi con opinioni confuse e divergenti, chiedendo alla narrativa di finzione che sia vera, alla poesia che sia falsa, alla biografia che sia lusinghiera, alla storia che confermi i pregiudizi che abbiamo già. Se potessimo bandire tutti questi preconcetti quando leggiamo, sarebbe già un inizio ammirevole. Non dettate al vostro autore, cercate di diventare lui. Siate il suo aiutante e complice. E poi troviamo tanti altri scritti sulla scrittura e sul pubblicare. Tra questi ultimi troviamo frequenti accenni alla soddisfazione della Woolf per i riconoscimenti pecuniari ai quali l'autrice era molto sensibile. Il 13 settembre del 26, per esempio, scrive: «La mia avidità è immensa. Voglio avere 50 sterline tutte mie in banca per comprare tappeti persiani, padelle, sedie, eccetera». Un'altra grande scrittrice è Catherine Mansfield, che troviamo nel libro di un'autrice che a sua volta si è dedicata allo studio di Virginia Woolf, cioè Nadia Fusini. Il libro si intitola La figlia del sole, vita ardente di Catherine Mansfield, Mondadori 156 pagine, 18 euro. Nel libro si parla di due fratelli molto uniti, Francis e Zoe, col nome chiaramente ispirato a Salinger, che sono accomunati dall'esperienza del primo di scrivere un romanzo sulla scrittrice neozelandese. La Mansfield arriverà presto a Londra dal suo paese, conoscerà appunto Virginia Woolf, ma il primo impatto non sarà del tutto felice. Tra l'altro, il circolo della Woolf non apprezza l'amante della non ancora scrittrice Mansfield. Nel dialogo fra i due fratelli, in questo libro, si dipana la breve vita della scrittrice, che, malata di tisi, andrà a cercare conforto nel Teporo della Provenza e poi cercherà requie da una specie di santone guaritore che propone una terapia a base di sapienza orientale, danze e tecniche psicofisiche. E a questo punto le informazioni sul traffico.